Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, ultimissime puntate di questa stagione. Vi porgo i saluti anche da parte della mia redazione, Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati e Valeria Bernardi, che è in regia. Anche i temi che tratteremo quest'oggi li potete commentare via SMS o WhatsApp, vi ricordo il numero 349-238-6666. Twittate pure, cinguettate a NessunLuogo24, ovvero il mio account privato, che è Giampaz, e poi cercateci su Facebook, anche lì potete commentare o suggerire temi per le ultime due puntate di Nessun Luogo. La pagina è NessunLuogoLontano-Radio24. La prima pagina di Nessun Luogo è Lontano vi porta in Cina. In Cina e in particolare a Hangzhou, dove il 4 settembre prossimo aprirà i battenti il G20, un evento importantissimo non solo dal punto di vista economico ma anche per riprendere le misure dal punto di vista geopolitico dei 20 più grandi paesi del mondo. Ma c'è stata una nota stonata per Pechino ovviamente. Ieri alla Casa Bianca un gruppo di dissidenti cinesi ha incontrato niente meno che Susan Rice, consigliere per la sicurezza nazionale. I quali hanno chiesto alla Rice che il presidente Obama portasse proprio al G20, proprio in quell'importante consesso internazionale, la questione dei diritti umani. E questa, se volete, è un po' la notizia nella notizia, e da questo aspetto vorrei partire, e lo faccio però portandovi a Pechino in diretta, dove c'è Cecilia Attanasio, sinologa, giornalista, freelance, la potete leggere sulla Stampa e su Internazionale. Cecilia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Cecilia, prima domanda, noi giornalisti occidentali, il pubblico in Occidente ha saputo ovviamente di questa notizia, che è poco meno di una bomba, perché il presidente Obama, anzi il suo consigliere, la Susan Rice, ha ricevuto questo gruppo di dissidenti cinesi che hanno chiesto apertamente al presidente statunitense di porre la questione rispetto ai diritti umani nel prossimo G20. A vederla male, è il secondo scivolone dell'amministrazione statunitense dal punto di vista di Pechino, perché circa un anno fa, se non erro, Obama incontrò proprio il Dalai Lama, l'acerrimo nemico di Xi Jinping. Allora, come si apre un G20 con una espressa richiesta da parte della dissidenza cinese di portare il problema, il dossier dei diritti umani sul tavolo appunto di questo G20? Allora, innanzitutto ricordiamo che Tembiao era un avvocato per i diritti umani in Cina, anche molto famoso nella Cina stessa, fino a quando non è stato costretto ad espatriare. Nel momento in cui, a pochi giorni dall'apertura del G20, incontra Susan Rice per sollevare l'annoso problema dei diritti umani, problema che peraltro hanno espressamente richiesto venga sollevato anche le associazioni cattoliche e protestanti della regione, e diversi altri nuclei di quelli che la Cina chiama dissidenti, è chiaro che esiste un problema. È altrettanto chiaro per noi che conosciamo la Cina che questo problema non verrà mai sollevato in sede di dissidenti. Allora Cecilia, forse la linea ci sta dando qualche problema, proviamo ad andare avanti, vediamo se ci supporta. Allora, chiaramente la questione dei diritti umani ovviamente non verrà poi sollevata, perché di solito in queste occasioni internazionali quello che conta e che comanda è la realpolitik. So che sei stata da pochissimo a Hangzhou, che è questa regione della Cina, dove si svolgerà il G20. Come questa municipalità sta affrontando un evento così importante? Ricorda, è la prima volta che la Cina va a ospitare un G20. Sì, è in 8 anni di storia del G20, per la prima volta verrà ospitata in Cina. È stata una sorpresa un po' per tutti quando hanno espresso la volontà di volerlo ospitare non a Pechino né a Shanghai ma ad Hangzhou. Hangzhou non è una città qualsiasi, Hangzhou è di fatto la nuova Cina, è la nuova Cina che la Cina vuole mostrare al mondo. È una città dove il privato conta molto, non dimentichiamo che è la città che ospita 50 delle 500 aziende più importanti del paese, e tra cui nota a tutti Alibaba, il colosso dell'e-commerce. ed è una città che è stata tirata a lucido per l'evento. Si parla di 21 miliardi di euro spesi, cioè più del quadruplo di quanto Rio abbia speso per le Olimpiadi. Si parla di 1 milione di volontari messi in campo dalla municipalità. Si parla di ricostruzioni di strade, quartieri distrutti e ricostruiti, sì, persone rilocate, sì. Il 4 e 5 nessun treno arriverà in città. Insomma, Anju che cambia faccia per un evento che promette di essere storico e un evento nel quale verranno discussi tematiche ovviamente molto molto importanti. Ci sarà una grossa attenzione all'economia, non è esattamente questa la sede, nessun luogo è lontano, ma anche questioni geopolitiche. L'Europa ha detto attenzione, c'è l'immigrazione, ma ricordiamoci che veniamo dal recentissimo colpo di Stato in Turchia, crisi siriana che sembra essere assai lontana da una risoluzione. Insomma, temi ce ne sono tanti. Cecilia, torno da te tra pochissimo. Fammi dare però il mio buongiorno e benvenuto al professor Franco Bruni, vicepresidente di ISPI e professore di economia monetaria alla Bocconi. Buongiorno professor Bruni, benvenuto buongiorno. A Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora professore, ci aiuti a capire quali sono le tematiche più calde, i dossier più scottanti che finiranno sul tavolo di questa 2 giorni importantissima? Ma io ho l'impressione che poi i lavori prenderanno una strada che potrebbe essere avere delle sorprese e seguire i temi più contingenti del momento, anche con una serie di temi trattati poi in riunioni collaterali rispetto, sì, a quelle generali. Certo, la preparazione dei lavori da parte della presidenza cinese ha visto diversi temi di grande rilievo dal punto di vista economico, per esempio il tema del finanziamento delle infrastrutture, in generale della creazione di infrastrutture che aiutino anche il commercio, legando il mondo meglio, diciamo, e facilitando in questo modo anche le esportazioni, le importazioni e in un certo senso gli investimenti diretti, soprattutto della Cina in Europa, ma sì, anche viceversa. Ecco, questo è un tema di grande rilievo che potrebbe essere ripreso anche con magari accenti leggermente diversi dalla presidenza tedesca dell'anno 21. Noi di ISPI che rappresentiamo l'Italia nel T20, cioè nel gruppo dei think tank che prepara un po', diciamo, le discussioni di alcuni, sì, dossier del G20, vorremmo insistere particolarmente su questo. Le infrastrutture sono un tema di grande importanza anche per rilanciare la domanda aggregata mondiale di investimenti pubblici che latita da diverso tempo, ecco. Sì. Quindi questo è un primo grande tema. Un altro tema che i cinesi hanno su cui i cinesi hanno molto insistito e su cui si spera si possa andare avanti l'anno 21 con i tedeschi è la riforma del sistema monetario internazionale, in cui i cinesi hanno delle opinioni forti che riguardano anche l'internazionalizzazione del renminbi e un maggiore riequilibrio del potere dei vari paesi all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Gli Stati Uniti hanno posizioni molto diverse, l'Europa può svolgere un'importantissima funzione di arbitro e di promotore di convergenze, purché abbia in sé la tranquillità di non andare a pezzi con la sua eurozona, insomma, nel frattempo. Ecco, quindi sì, il tema della riforma finanziaria e monetaria internazionale è un altro grande tema. E infine, se dovessi sceglierne un terzo, direi che un tema che ha avuto molto spazio nei lavori di preparazione del G20 è quello della povertà, dell'emarginazione, delle diseguaglianze che in diverso modo hanno accompagnato lo sviluppo mondiale di questi anni e la globalizzazione che ha permesso di arricchire molte persone, molti paesi, ma ha anche creato grandissime diseguaglianze, sì, sia all'interno dei paesi che fra i paesi. Questo è un tema che va affrontato in diversi modi, compreso quello di immaginare dei modi per compensare chi dalla globalizzazione esce perdente e ha bisogno di nuove politiche di welfare, di aiuto, di promozione del reinserimento e così via. Sì. Ed è interessante vedere, professor Bruni, la interrompo, perché alcuni dei temi che la Cina ha a cuore, questo G20 avrà a cuore, sono temi anche interni rispetto alla Cina stessa. Parliamo delle infrastrutture, un territorio vastissimo che Pechino sta piano piano, anzi velocemente, collegando. E poi il tema delle disuguaglianze, ricordiamo ad esempio il fenomeno immigrazione, che è un dossier sul quale l'Europa continua a insistere e chiederà aiuto anche in quel consesso, è un tema che la Cina conosce bene perché, forse poco raccontata, esiste una forte immigrazione interna cinese dalle zone rurali verso le grandi città. Quindi sono dinamiche che noi viviamo in Europa, vive l'Occidente, ma la Cina allo tempo stesso vive internamente. Quindi insomma possono essere laboratori per discussioni e per anche una presa di decisioni, speriamo, virtuose. Altri grandi temi, come ad esempio il conflitto siriano, come la contesa, attenzione, delle acque del Mar Cinese Mediterraneo, che la Cina appunto contende, noi vi abbiamo raccontato qui a Nessun Luogo Lontano, con Malesia, Vietnam, Filippine, Taiwan fra gli altri, che spesso creano forti tensioni, beh, quelle ragionalmente non saranno oggetto di discussioni. Ci sono un po' di temi, forse, professor Bruni, che sono dei tabù in questo G20. Ma più che dei tabù, è una buona regola di queste occasioni quello di non andare a toccare i temi su cui si hanno delle posizioni e degli interessi soprattutto chiaramente divergenti all'inizio, perché su quelli non si progredisce, quindi bisogna concentrare la cooperazione là dove ci sono delle prospettive di convergenza. Se dopo si converge su quelli, allora il clima si rasserena e allora si possono anche in altre sedi o in sedi affiancate anche affrontare meglio i temi caldissimi, insomma, per quello che li si toglie, non perché si abbia, diciamo, paura o perché si voglia creare dei tabù, ma proprio perché le regole della diplomazia suggeriscono di fare esattamente il contrario, di partire dai temi dove si è più o dove ci sono più potenzialità di convergenza, dove si può dimostrare che la cooperazione è in grado di avere dei successi, per poi muovere gradualmente, se il clima è buono, verso... E alzare l'asticella, insomma, partiamo da piccoli passi e da piccoli gradini, non dai grandi buri. Grazie mille al professor Bruni, professore di economia monetaria alla Bocconi, vicepresidente di ISPI, anche per questa lettura un po' più allargata. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie. Prima pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata all'apertura del G20 in Cina, da un lato con una chiave, un'ottica un po' più strettamente geopolitica, e ci ha aiutato il professor Bruni, vicepresidente di ISPI, e poi un po' più giornalistica, grazie a Cecilia Attanasio, collega freelance, la leggete sulla Stampa, su Internazionale, sinologa in diretta da Pechino, che ci stava raccontando i preparativi ferventi della città di Hangzhou, che ospiterà appunto questo G20. C'è anche una dinamica tutta interna al Partito Comunista, perché, come potete immaginare, il segretario locale del Partito Comunista, organizzando un evento di tale importanza, si sta giocando un bel po' di carte. Cecilia Attanasio, è così? Diciamo che se le ha già giocate, visti i costi, che abbiamo detto appunto 4 volte quelle delle Olimpiadi di Rio, anche di più, e vista la scontentezza spesso degli abitanti locali, che comunque sono stati costretti a un cambiamento totale di vita e a un anno di cantiere aperto in una città che, ricordiamolo, sin dai tempi di Marco Polo è considerata il gioiello della Cina, una città sul lago dove le colline sono i tè, addirittura si dice si fa il tè direttamente con l'acqua del lago. Ed è peraltro la città che ha permesso la carriera politica di Xi Jinping, perché Xi Jinping è stato a capo della regione fino al 2007 ed è stato il suo fiore all'occhiello. Il fatto che ci siano 50 delle 500 aziende private più importanti cinesi è stato permesso dalle sue politiche di apertura, quindi sì, è chiaro che è una pressione grande per l'attuale capo di partito. Sì. E poi volevo tornare, Cecilia, con te all'aspetto con cui abbiamo aperto questa pagina di Nessun Luogo, tutta dedicata al G20 in Cina, che è questo incontro di questo gruppo di attivisti cinesi con Susan Rice, consigliere per la sicurezza nazionale statunitense alla Casa Bianca. Una notizia che i media occidentali hanno riportato, che ormai è patrimonio comune di noi osservatori. Ma in Cina chi è che ha saputo questa cosa? In Cina, allora, diciamo che Chen Biao ha una sua rete di attivisti, di cui peraltro la maggior parte sono stati arrestati a luglio scorso, ed ha una rete sui social network molto forte, quindi la notizia è passata alle persone che però già si occupano di questi temi e che sono quelli poi sotto la stretta di questo giro di vite che avviene sotto la presidenza di Xi Jinping. Sì. Scusa Cecilia, per spiegare l'ascoltatore, di Tian Biao è questo famosissimo avvocato difensore dei diritti umani che ormai vive negli Stati Uniti e che si è fatto promotore di questa istanza appunto con la RICE, tramite la RICE fino a Obama, insomma mettere il dossier diritti umani in Cina, rispetto ai diritti umani, sul tavolo del G20. Perdonami, vai pure avanti. Per quanto riguarda ovviamente i media di Stato, televisioni, giornali, siti internet, non se ne trova notizia e probabilmente non arriverà, anche per i motivi di cui parlava prima il professore, si cerca di attenuare le differenze in questi meeting, non arriverà mai sul tavolo del G20. Forse in quegli incontri bilaterali di cui questo G20 sembra pieno. Sì. Le ultime due domande, Cecilia. Una riguarda sempre al panorama mediatico. È sempre molto interessante osservare come i media locali di ciascun paese raccontano grandi eventi internazionali. Quanta sarà la copertura e come avverrà il racconto di questo G20 da parte dei media cinesi? Se hai già sentore di quello che stanno facendo i tuoi colleghi? Sì, ovviamente è già cominciato. Sarà molta immagine. Per chi non è mai stato in Cina, provate a immaginare una città tirata completamente a lucido, con una serie di infrastrutture nuove, ma anche con una serie di muri che coprono tutto ciò che non è bello. Per un esempio stupido, le pompe di benzina non si vedono più in città, i venditori di cibo ambulante, che sono una caratteristica di tutta l'Asia, sono praticamente già spariti, a quanto mi dicono. Sì. Insomma, un'operazione che deve essere anche un'operazione di propaganda, che rafforzi una certa immagine della Cina, non soltanto agli occhi del mondo, ma anche verso il 1,5 miliardi di cinesi che staranno incollati alla CCTV a vedere che figura sta facendo il loro paese in questo battesimo. È la prima volta che ospita il G20. L'ultimissima domanda, poi ti lascio il tuo lavoro, Cecilia, ringraziandoti. Tra i temi che abbiamo toccato col professor Bruni, i dossier più caldi, forse ne manca uno, utilizzando il giochino degli hashtag, potrebbe essere clima. Sì, allora si parla, probabilmente questo sarà il grande annuncio di questo G20, ancora la notizia non è ufficiale ma se ne parla molto, è chiaro che la Cina vorrà dare un grande annuncio e questo annuncio probabilmente sarà sul clima, sul rinforzamento degli accordi di Parigi. Se adesso abbiamo 23 paesi che hanno segnato per una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030, si parla che si sta mettendo a punto un accordo che verrà annunciato congiuntamente da Obama e Xi Jinping per il taglio del 55% delle emissioni, firmato da 55 paesi. Grazie mille anche per quest'ultimo dossier che abbiamo aggiunto sul nostro tavolo virtuale, in cui vi abbiamo raccontato quello che accadrà dal 4 settembre poi in Cina, a Hangzhou. Grazie mille Cecilia Attanasio, lo ricordo, sinologa, giornalista, freelance, leggetela sulla Stampa Internazionale. Buona giornata e buon lavoro, Cecilia. Grazie a voi, arrivederci e buon pomeriggio. Seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Vi raccontiamo un'altra storia, la storia di una guerra dentro alla guerra. Una guerra che si combatte contro nemici che si chiamano distanza, si chiamano assedio, mancanza di farmaci, assenza di corridoi umanitari, e forse questo ci ricorda già il teatro siriano, scarsità di attrezzature mediche. È la guerra, mi perdonerete il termine, ma è proprio così, che quotidianamente medici e operatori umanitari combattono in zone di conflitto appunto in tutto il mondo, ma non solo, anche zone remote dove magari esiste un solo medico per decine di migliaia di abitanti, in zone rurali sperdute dell'Africa con piccoli villaggi dove non c'è assistenza sanitaria. La telemedicina è la nuova frontiera che permette di salvare vite umane. Pensate, lo ripeto, al caso siriano, a città sotto assedio per anni come Aleppo. E il caso siriano non lo cito a sproposito, perché lo ricorderete ai primi di agosto, quando vi raccontavamo dell'agonia di Aleppo. Ebbene, in molti commentatori sottolineavano degli ultimi medici rimasti ad Aleppo. L'11 agosto 15 degli ultimi 35 rimasti avevano scritto addirittura una lettera a Barack Obama pregandolo di intervenire per fermare i bombardamenti. Molto spesso il teatro siriano ha visto i medici, gli operatori umanitari, veri e propri bersagli delle forze in campo. Poi però vi sono stati casi anche virtuosi, come il Madaya Medical Consultants, che era un gruppo su WhatsApp che metteva in contatto medici, erano per la maggior parte siriano-americani, e dottori di Madaya in Siria. Siamo a circa 50 km da Damasco, circa 25 i membri, ma potete trovare osteopati, pneumologi, ostetrici, pediatri. Ovviamente, come immaginate, i dottori che sono membri del gruppo temono di essere identificati, quindi ci tengono particolarmente all'anonimato perché temono le ritorsioni del regime di Assad. Poi, collegato a questa, c'è una storia che è fatta di tecnologia, perché come potete immaginare, se gli operatori telefonici funzionano bene, la telemedicina funziona. Se esiste un wifi, e in alcune zone della Siria resiste, ebbene, esempi virtuosi di consulenza a distanza, di invio di foto, di patologie non curabili magari da un medico locale, ma il quale va a chiedere aiuto a un collega che è a Londra, beh, funziona. Se però vi sono problemi di comunicazioni, evidentemente questo virtuoso sistema evidenzia delle crepe. In questa pagina di Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo un po' di storie virtuose e anche virtuali, e scusate il gioco di parole visto che di telemedicina si tratta. La prima storia ci porta in Zambia, un paese africano dal gravissimo stato sanitario. Abbiamo sentito Fran Fieldhouse, che è il direttore medico di Virtual Doctors, è inglese, ha lavorato per diversi mesi in un ospedale in Zambia del Sud e in centri per rifugiati in Sudan e in Tunisia. Sentite quali servizi offre questa organizzazione e la app ad essa collegata. In Zambia, come nella maggior parte dei paesi poveri, ci sono pochissimi medici. La maggior parte dell'assistenza sanitaria è fornita da infermieri e personale delle cliniche. Per risolvere il problema della mancanza di personale specializzato, noi consegniamo al personale delle strutture mediche uno smartphone con installata l'app di Virtual Doctors. È un servizio completamente gratuito. Quando queste persone hanno a che fare con un caso che non riescono a risolvere o che non si evolve come previsto, possono usare l'app per contattare i nostri medici volontari in Inghilterra e chiedere loro un consiglio. Il dottore virtuale, Virtual Doctor, questa app che permette a pochi colleghi in zone sperdute che devono coprire un altissimo numero di pazienti di confrontarsi con colleghi anche in zone lontanissime in Europa, colleghi magari che hanno delle qualifiche maggiori o più accurate per quella specifica patologia, beh, di confrontarsi e alla fine salvare vite umane. L'organizzazione Virtual Doctors, che appunto ha sviluppato questa app, lavora a distanza in 20 centri di salute nelle zone rurali dello Zambia e in 2 ospedali di distretto, però si stanno espandendo anche in Tanzania. La diffusione della telemedicina e di questo metodo virtuoso che promette di salvare vite, però, lo dicevo, è strettamente legata alla diffusione delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e possibilmente al wifi. Come fa questa app a funzionare nelle più remote zone rurali? Lo abbiamo chiesto a Fran Fieldhouse. Il Wi-Fi non è diffuso, però la rete mobile si sta diffondendo e la sua qualità sta migliorando. Lo Zambia è uno stato molto esteso ed è per la maggior parte rurale. Al momento possiamo fornire il nostro servizio solo nelle cliniche dove sono presenti copertura di rete e il Wi-Fi necessari a far funzionare l'app. Le son bambara chargé d'espoir brûle. À contre-jour, mon hardiesse persiste. À contre-courant, Tracciamo un bilancio con Fran Fieldhouse, direttore medico di Virtual Doctors. Quali sono gli ostacoli e quali sono gli obiettivi di questa app? I think the main obstacle is access to healthcare. Penso che l'ostacolo principale sia l'assenza di assistenza medica. Ci sono lunghissime distanze tra i villaggi e gli ospedali, e i medici sono pochi. Si parla di circa un dottore per 12-13 mila abitanti. Uno degli obiettivi del nostro progetto è di evitare agli abitanti di compiere viaggi estenuanti e costosi per raggiungere gli ospedali, dove talvolta comunque mancano le tecnologie adatte e i dottori non sono disponibili. Un altro scopo di Virtual Doctors è di formare il personale medico locale, in modo che se in futuro gli capiterà un caso simile sapranno come risolverlo. Qual è il profilo del medico volontario che a distanza dal suo ufficio, dalla sua abitazione di Londra, aiuta qualcuno, un collega in una zona sperduta, rurale dello Zambia? Sentite. I nostri volontari sono per la maggior parte medici generici. Ci sono anche molti specialisti, psichiatri, neurologi, chirurghi. Sono per lo più persone che hanno lavorato in Africa e che, nonostante ormai la loro vita sia nel Regno Unito, vogliono continuare comunque a mettere le proprie competenze e abilità al servizio del personale medico africano. E andiamo a un ultimo caso, un'ultima storia che è particolarmente emblematica, perché quando il medico si trova di fronte a una sintomatologia che non è immediatamente comprensibile, beh, lì tutta la validità della telemedicina si mostra. Il beneficio principale per la popolazione è che stiamo migliorando la qualità delle cure per i pazienti. Un caso recente che ho dovuto analizzare è stato quello di un medico che non era sicuro se il suo paziente avesse avuto un infarto oppure no. Tramite la nostra app ho potuto dargli un consiglio e chiedergli di riesaminare il paziente. Il medico in Zambia si è accorto così che non aveva avuto un ictus, ma un altro problema neurologico che ha potuto risolvere somministrandogli degli steroidi, come gli avevo suggerito. Alla fine mi ha ricontattato e mi ha scritto: ho rivisitato il paziente, è completamente guarito. Grazie mille, abbiamo seguito la cura giusta. E con la fine della storia di Fran Fieldhouse andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi vi racconto altre storie di medici in prima linea, ma a distanza. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Si possono salvare vite a distanza, si può trasferire una competenza scientifica, medica, attraverso chilometri e chilometri, a volte è necessario farlo. Vi ho raccontato del caso siriano e di alcuni casi virtuosi in cui medici si confrontavano, medici siriani con colleghi europei, e riuscivano a salvare vite in condizioni, per esempio, di città assediate. Il personale medico in Siria in particolare è stato un target, è stato un obiettivo negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Una commissione ONU ha per esempio dichiarato che il governo ha colpito deliberatamente il personale medico per guadagnare un vantaggio militare sul terreno. Da ciò si evince quanto importante sia il lavoro di medici in prima linea. Ma abbiamo ammesso il grand'angolo, come amiamo fare noi a Nessun Luogo Lontano, non soltanto situazioni di guerra, ma anche situazioni di disagio dovute a grandi distanze. Lì due medici si parlano a distanza, un medico riesce a trasferire le sue competenze, le sue conoscenze all'altro medico che le applica e salva vite o fa guarire persone. Andiamo a raccontarvi altre storie. Vi porto a Beirut, in Libano, dove c'è Marco Simonelli, responsabile sanitario di Médecins Sans Frontières, appunto nel paese dei cedri. Buongiorno Simonelli, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, è utile iniziare dalle storie perché sono quelle più immediatamente comprensibili. Qual è l'ultimo caso che avete trattato grazie alla medicina a distanza, alla telemedicina? Ma io direi, se non erro, qua guardavo le documentazioni in possesso e parlando un po' con i colleghi che sono in prima linea sul confine siriano, io direi che è una ragazza di 25 anni che è arrivata nel nostro ambulatorio alcuni giorni fa con delle macule, diciamo, di vario colore sul corpo, e attraverso le foto che abbiamo fatto è stata poi diagnosticata una leishmaniosi cutanea, un caso abbastanza interessante, quella che possiamo definire, viene definita il bottone d'Oriente, il foruncolo di Aleppo, insomma una patologia che, diciamo, è presente soprattutto in Siria e che attraverso appunto delle foto che abbiamo fatto, che i miei colleghi hanno fatto sul confine libanese e siriano, sono riusciti a fare la foto, mandarla allo specialista dermatologo che poi ha fatto questa diagnosi di leishmaniosi cutanea. Se siete interessati vi dico qualcosa di più. Sì, ma diciamo sull'aspetto medico magari no, non entrerei, però è interessante l'aspetto tecnico. Voi come fate a comunicare? Avete un software che avete studiato, sviluppato voi di MSF? Sì, l'iniziativa è iniziata diversi anni fa da un gruppo di medici che appunto lavoravano soprattutto nell'Africa subsahariana e si erano resi conto che le capacità a disposizione erano limitate, essendo appunto in situazione di assoluto remote. E quindi c'è un software che hanno designato, l'operatore, il medico ha la possibilità di scrivere quello che vuole in termini di anamnesi, chi è la persona che ha di fronte, i sintomi e poi allegare qualunque informazione elettronica, che può essere un esame radiologico, può essere una foto qualsiasi, può essere un esame di ultrasuono, può essere appunto dei raggi X o foto di qualunque sì. genere. Sì. Allora, queste app, la telemedicina, nasce per una necessità. A volte medici internazionali, operatori umanitari non riescono a raggiungere zone di bisogno per varie nature, per la distanza, per esempio, per il tempo che è troppo breve o perché è in atto un conflitto e quindi diventa troppo pericoloso. Allora, a quel punto subentra questa consulenza a distanza particolarmente completa, particolarmente virtuosa, perché permette uno scambio live in diretta di informazioni, di foto, di immagini e quindi non solo una diagnosi ma anche delle dritte tra virgolette su come intervenire. Se questa app nasce per avere una comunicazione immediata, no? Perché da Londra bisogna parlarsi con Damasco, perché voi da Beirut dovete parlarvi col confine siriano, esistono dei casi in cui, come dire, la barriera linguistica, per esempio, o quella culturale si frappone e allora ci sono dei problemi, ci sono dei diaframmi da superare, oppure la comunicazione fra un medico occidentale e un medico siriano è, alla fine si utilizza l'inglese, il linguaggio medico, e quindi è molto facile. Esistono delle barriere in questo senso? Ma ci possono essere oppure non ci possono essere, appunto la parola sanitaria medica fortunatamente riesce a comunicare in tutto il mondo, ripeto ci mantiene la scientificità riguardo le comunicazioni che vengono mandate tramite software. Approfitto per ricordare un po' anche l'aspetto più tecnico. Sì. Abbiamo, come ha detto lei, abbiamo un paziente, un medico che non riesce appunto a comunicare con gli specialisti. La medicina ha sempre più bisogno di specialisti che confermano le diagnosi del physician, no? Dell'esperto in medicina interna. Quindi sì. Attraverso appunto queste foto parte questo network elettronico e arriva, decidono un po' gli specialisti qual è il migliore che può rispondere alla specifica domanda. Apro una parentesi dicendo appunto che ci possono essere anche delle malattie rare che è veramente difficile diagnosticare. Certo. E attraverso questo network lo specialista di turno riesce appunto a fare la migliore diagnosi possibile. Sì. Quindi direi che il limite, la barriera, diciamo, di paese, diciamo, fortunatamente non è così evidente. Sì. Sì, non allora, è così evidente. Mi sembra di capire che i punti di forza della telemedicina sono anche sulla visibilità di certi sintomi, quindi immagino ortopedia, no? Un arto rotto, la dermatologia, citava questo caso, no? Di queste macchie evidenti. Esatto, e lì la foto vi aiuta, vi soccorre. Dov'è che invece i vostri medici dicono accidenti, dovremmo essere lì per dare una mano? Assolutamente, no, approfitto anche per ricordare che ci sono degli strumenti sempre più avanzati, sempre più innovativi c'è anche l'aspetto conservatore, qualcuno dice ma ce la facciamo oppure no, come dice lei confermo, dove ci sono la possibilità di avere una documentazione del sintomo, no? Dove c'è la possibilità di fare un esame radiologico, gli ultrasuoni, appunto la dermatologia è un'applicazione straordinaria, no? Uno basta fare la foto e poi si differenzia una dermatite da una malattia infettiva, eccetera. Sì. Riguardante le debolezze ci sono sicuramente, no? Approfitto per dire appunto che la clinica medica non può essere sostituita, magari se potesse essere, quindi quando c'è la necessità di avere una pluralità di informazioni in termini di sintomi, no? Quindi direi forse anche le malattie croniche, quelle più degenerative, oppure dove c'è bisogno appunto di una complessità olistica, no? Dove arrivano, dove c'erano più sintomi da mettere insieme, dove c'è appunto la bisogno di toccare il paziente, ecco. Non so se riesco a rispondere in qualche modo, assolutamente, però anche lì un limite. Assolutamente sì, e mi dai là invece Simonelli per fare l'ultima domanda. Io ricordo fra l'altro che voi più o meno fate circa 20 consultazioni al mese di telemedicina, quindi a distanza, lavorate moltissimo sui rifugiati siriani, ufficialmente sono più di 1 milione, in realtà poi ci sono campi non ufficiali, quindi arriviamo a 1,5 milioni, il Libano soffre di una situazione veramente importante. Le chiedo super sintesi in questa risposta, che è una risposta un po' emotiva, un po' di pancia, me ne rendo conto, ma quando un medico è costretto a lavorare a distanza, quel medico che vorrebbe stare in prima linea, aiutare i pazienti e di solito è abituato a toccare con mano, ha a volte un senso di frustrazione, di dolore nel dover dare indicazioni e avere una mano lunga in un collega che poi a centinaia di chilometri di distanza? Come funziona dal punto di vista delle emozioni di un operatore sanitario che se la gioca normalmente in prima linea? Ah, direi sì e no, sì. Chi è vicino direi che ha la difficoltà, però anche la forza, no, di vedere il paziente, di provare ad aiutarlo e aggiungergli una parola. Chi è distante dall'altra parte ha la capacità molto asettica e consapevole, che può dare tutte le informazioni, parlare con chi vuole in termini di colleghi, però è vero, come dice lei, la distanza poi può essere anche frustrante. Sarebbe da parlare a questo punto con i colleghi nelle varie capitali, che ricordo sono un po' sparsi nel mondo e che abbiamo anche molte cliniche tutto in giro, sia in Africa che in altri paesi, per cui veramente poi spero che ci sia la consapevolezza tra i due specialisti di aiutarsi gli uni con gli altri per un benefico risultato, si spera, sì. Grazie mille, era Marco Simonelli, coordinatore medico di MSF in Libano, in diretta da Beirut. Buona giornata, buon lavoro Simonelli. Noi andiamo a sentire la situazione sulle strade italiane e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano. Quest'oggi vi raccontiamo una storia di una guerra, o meglio di una lotta dentro altri conflitti, che è quella che fanno gli operatori sanitari, i medici, quelli in prima linea, quelli bersagliati, soprattutto in Siria, dal regime di Assad, per esempio. Una commissione ONU ha dichiarato ultimamente e ha conclamato il fatto che gli operatori sanitari in tante città sono stati target, obiettivi deliberati del regime, perché pensateci bene, nel momento in cui si nega l'assistenza medica non si curano i feriti, si mette in ginocchio non solo l'esercito ma anche una popolazione. Tutto questo per dire quanto è importante il ruolo degli operatori sanitari, dei medici, ma questo non c'è bisogno che ve lo dica io, ma forse non sapevamo che la telemedicina, quindi un altro operatore, un collega a migliaia di chilometri di distanza, mi può dare una mano, a me, medico da solo, l'ultimo rimasto ad Aleppo, perché magari ho una patologia che non conosco e magari non so bene come operare. Non soltanto nelle zone del Medio Oriente o nelle zone sperdute d'Africa, ma anche negli Stati Uniti la telemedicina ha preso piede, soprattutto fra gli studenti. Vi raccontiamo la storia di questa Figure One, che è un'altra app che esiste dal 2013, è gratuita ed è utilizzata dal 65% degli studenti di medicina appunto negli Stati Uniti. Sentite come funziona e quale altre applicazioni ha in teatri che noi di Nessun Luogo vi raccontiamo normalmente, dalla voce di Sharona Vorona, che è il direttore medico. Figure One si può scaricare gratuitamente dall'App Store ed esiste anche in versione web, con un sito su cui puoi caricare le foto. Figure One è una rete che mette in contatto professionisti del settore sanitario provenienti da tutto il mondo. Possono discutere i casi e condividere le proprie conoscenze quasi in tempo reale. Abbiamo lanciato Figure One nel 2013 e da allora l'app si è diffusa molto. Oggi è usata da oltre 1 milione di medici in 190 paesi. Molti di loro si trovano in aree isolate e remote, come i campi per i rifugiati in Turchia e in Libano, dove curano i rifugiati siriani. Questi pazienti riportano ferite e malattie che spesso i medici sul posto non conoscono o non hanno trattato spesso nella loro carriera. Magari saprebbero come prendersi cura del paziente in modo sicuro, ma non come farlo nel modo migliore. Con Figure One possono scattare una foto alla ferita o alla malattia, ovviamente con il consenso del malato. Lo scatto viene poi caricato sulla app e corredato da tag e da una didascalia con i dettagli del paziente, in cui si richiedono informazioni o un consulto medico specifico. L'applicazione è dotata di uno strumento che cancella dall'immagine tutti i dettagli che potrebbero rendere il paziente identificabile. A quel punto l'utente può chiedere un feedback da parte di tutta la comunità medica globale che osserva la foto presente su Figure One. Si tratta di uno strumento di grande supporto per i medici che in quel momento non possono appoggiarsi a ospedali e cliniche o che non hanno colleghi a cui possono chiedere aiuto su un caso. E come vi abbiamo raccontato, se è vero che molto spesso, sempre più spesso ai noi, sia medici che ospedali diventano un obiettivo, ovviamente bisogna garantire la salvaguardia non soltanto dei pazienti ma anche degli operatori sanitari. Questa Figure One, ad esempio, ha un sistema di messaggistica che consente quindi un rapido scambio di informazioni, ma allo stesso tempo questa messaggistica è ben protetta. Sentite. We do have a direct messaging feature and it's actually HIPAA compliant, which means that it's fully encrypted. Sì, è disponibile un servizio di messaggistica istantanea con certificazione HIPAA, ovvero criptato, che protegge la privacy del paziente. È un servizio che ti permette di essere in diretto contatto con uno specifico medico. Si tratta di uno strumento incredibile che abbiamo introdotto perché i nostri utenti volevano poter discutere i loro casi problematici con altri professionisti in modo più approfondito e al di fuori del forum pubblico. Vi è anche un'altra importante funzione, il paging. Per esempio, se c'è un utente che vuole ricevere un parere rapido e preciso sul suo caso, consultando un determinato professionista, per esempio un dermatologo o un cardiologo, con questo feature può specificarlo. Lo specialista in questione verrà avvisato della richiesta e l'utente riceverà il feedback di cui ha specificamente bisogno per il suo caso. E questo era il racconto di Sharon Vorona, direttore medico di Figure One, un altro esempio in cui la trasmissione a distanza di competenze e di conoscenza aiuta in un momento di conflitto, ma non solo. Poi noi di Nessun Luogo Lontano ci siamo interrogati su quelli che sono gli esiti dei conflitti e ce n'è uno che è molto poco raccontato, sono le mine sparse nel mondo. Ogni giorno nel mondo 10 persone risultano uccise o ferite da mine antiuomo. La maggior parte delle vittime sono civili che attraversano zone minate non segnalate. 18% sono militari, il 3% sono proprio gli addetti allo sminamento. Non capita solo in zone di guerra, ma anche in aree del mondo dove la guerra c'è stata ed è finita e lì si dispiega la sua benefica eredità. È un problema che riguarda 60 paesi nel mondo e si stimano che siano disseminate in tutto il globo 100 milioni di mine antiuomo. L'ultima storia che vi raccontiamo oggi a Nessun Luogo Lontano ha un nome che suona così: Mein Kampf Drone. E quindi immagino avete già capito di che si tratta. Si lavora a distanza, sì, lo si fa con un drone. Questo drone è composto da 3 robot, il primo mappa l'area, il secondo ha un vero e proprio metal detector che invia, trova le mine e le invia al GPS, le coordinate al GPS, e infine c'è un braccio armato che viene usato per piazzare i detonatori e far esplodere la mina. Un altro esempio in cui si riesce a lavorare a distanza e incidere sui conflitti, non necessariamente conflitti attivi, ma anche conflitti del passato. Quei conflitti che Mahmoud Hassani ha vissuto in prima persona. Lui e il fratello è cresciuto nel nord dell'Afghanistan. Nel paese, durante la guerra, la lunghissima guerra che non è ancora finita, sono state piazzate 10 milioni di mine in un'area di 500 chilometri quadrati. Beh, lui e il fratello hanno fondato questo progetto, Mine Kafon Drone, e sono anche su Kickstarter perché stanno cercando di fare un'operazione di crowdfunding, di raccolta fondi per poter realizzare i primi prototipi. Perché ha progettato il drone? Ce lo racconta Mahmoud Hassani. Il progetto di Mine Kafon Drone è nato qualche anno fa. L'idea da cui siamo partiti era di trovare un modo veloce e semplice per sminare le zone di guerra. Il primo approccio è stato più artistico e l'obiettivo era di aumentare la consapevolezza verso il problema. Poi si è fatta strada l'idea di creare un robot che potesse sminare i territori in modo sicuro ed economico. E così ha preso corpo il progetto del drone. That was the initial idea to work with a drone. Come la tecnologia fa prendere distanza rispetto alla prima linea, quella prima linea dove operano medici e dottori coraggiosi e colleghi internazionali danno loro una mano, appunto a distanza con le app. E quella prima linea dove vi sono territori immensi da sminare e rendere sicuri per la popolazione, è lì evidentemente è più virtuoso ed è più efficiente ed efficace se è un robot a mettere le mani e non un essere umano. Come funziona questo drone studiato dai due afghani e quanto costa? Sentite. The drone works in 3 steps. It has a modular system. Il lavoro si svolge in 3 fasi. Il drone infatti è modulare e questo ci permette di modificarlo in base alle esigenze del caso. Ogni robot del drone ha abilità diverse. Innanzitutto il drone sorvola l'area e la scansiona per permetterci di avere la visuale dell'intera area. Lo stesso drone poi viene fornito di un metal detector che scova le mine nel terreno. Infine, l'ultimo passo è quello di montare sul drone un altro robot. Quest'ultimo posiziona dei detonatori attorno alle possibili mine e noi possiamo farle esplodere a distanza. Il nostro sistema consente di sminare le zone in modo più sicuro e veloce delle tecnologie in uso. Al momento il costo del drone è tra i 1.000 e i 5.000 euro. Il primo robot costa intorno ai 3.000 euro, mentre il robot che posiziona i detonatori ne costa 5.000. Per darvi un'idea, i robot tradizionalmente usati per queste operazioni costano tra 100.000 e 500.000 euro. Quindi sono molto più costosi. I fratelli Hassani sono afghani, vengono dal nord dell'Afghanistan, adesso stanno in Olanda, hanno presentato il progetto al Ministero della Difesa olandese e anche alle Nazioni Unite, però allo stesso tempo cercano fondi tramite la rete per sviluppare questo progetto che è più economico di altri progetti. Uno dei due fratelli è ingegnere, l'altro è un designer. Avete sentito che all'inizio il progetto aveva anche uno scopo di sensibilizzazione, per quello la componente estetica aveva una sua importanza. Apriamo l'ultimo capitolo con i fratelli Hassani, che è quello del finanziamento e dei possibili sviluppi. Sentite. So we started 2 years ago. Abbiamo iniziato a sviluppare il drone 3 anni fa e all'inizio è stato molto difficile trovare finanziamenti, in parte perché era un progetto molto ambizioso e in parte perché non molti erano disposti a investire senza la certezza del funzionamento del drone. Anche il governo olandese non è stato disposto a investire finché non siamo arrivati a un livello avanzato del progetto, perciò abbiamo cercato altre fonti di finanziamento. Siamo partiti, abbiamo raccontato alle persone cosa stavamo realizzando e perché volevamo realizzare il Mine Kafon Drone. Abbiamo caricato il progetto su Kickstarter e l'abbiamo promosso. È importante dire che questo lavoro è stato per lo più finanziato dalla gente e non dai governi. Sono state 4.000 le persone che hanno supportato il progetto e che vogliono vederlo realizzato. Considera che se riusciremo a distribuire 40 droni per paese, avremo raggiunto un obiettivo molto importante. Sono circa 60 i paesi che hanno un problema con le mine antiuomo. Credo quindi che se producessimo e distribuissimo 3 o 4 mila droni nei prossimi 5 anni, il problema potrebbe essere risolto in molte parti del mondo. in 5 years, mostly the half of the world will be clear of landmines. È tutto per questa puntata di Nessun Luogo. Un grazie da parte anche di Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati in redazione, Valeria Bernardi in regia. Appuntamento per domani alle 12, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano.